Qualche anno fa era uscito un video che girava molto. In questo video c'era un cieco che chiedeva l'elemosina con un cartello. Sul cartello c'era scritto: "Sono cieco, per favore, aiutatemi". La gente passava, guardava, ma lui riceveva soltanto qualche spicciolo. Fino a quando non arriva una signora, prende un cartello e inizia a scrivere qualcosa di diverso su quel cartello. Improvvisamente la gente inizia a fermarsi e a fare elemosina a valanga. Dopo qualche ora la donna ripassa e il cieco in qualche modo la riconosce. Allora le chiede: "Ma che cosa hai scritto nel cartello?" E lei le risponde: "Ho scritto soltanto parole differenti". Il cartello diceva così: "Oggi è un giorno meraviglioso e io non posso vederlo". Le parole sono molto importanti e non è indifferente il modo in cui le usiamo e le parole che scegliamo di utilizzare. Pensiamoci un attimo, le parole non sono soltanto un insieme di lettere, ma hanno un'anima, esprimono concetti, idee. Le parole richiamano immagini e le immagini spesso richiamano emozioni. Ecco perché le parole sono così importanti. Vi faccio un esempio. L'altro giorno sono andato in montagna e c'era molto freddo. Le mani mi si sono gelate, avevo la pelle d'oca. Il vento mi entrava fin nelle ossa e mi faceva tremare. Credo che se continuassi ancora per qualche tempo un discorso del genere, piano piano anche voi iniziereste a sentire il freddo che comincia a salirvi piano piano dentro. Un altro esempio, tra i ragazzi a volte sento usare questa espressione: "Sei proprio una brutta persona". È un'espressione che viene usata in senso scherzoso, ma quale effetto ci può fare sentirci dire che siamo una brutta persona, specialmente poi se questa espressione viene usata diverse volte? Ci sono parole che evocano qualcosa di brutto, concetti come buio, lontananza, freddo, e ci sono invece altre parole che evocano qualcosa di bello, di positivo, di luminoso. Fino a che punto sei consapevole delle parole che utilizzi durante il giorno? Facciamo qualche esempio. Supponiamo che tu faccia parte di un gruppo in cui i legami di un tempo si stanno un po' deteriorando e tu abbia voglia, desiderio di esprimere questo al tuo gruppo. Potresti fare un discorso del genere: "È bruttissimo ciò che ci sta succedendo. Vi siete accorti che i nostri rapporti ultimamente sono corrosi dalla sfiducia e l'impegno di una volta è naufragato sotto il peso della fatica e dell'abitudine. Mi pare che certe dinamiche si stiano incancrenendo e questo mi lascia un senso di vuoto che mi fa molto male". Oppure potresti scegliere di utilizzare altre parole: "Sono profondamente sicuro che l'entusiasmo che ci ha legati quando abbiamo iniziato questa avventura possa rinascere. Se avremo fiducia e ognuno di noi collaborerà tirando fuori il meglio di sé, sono sicurissimo che insieme supereremo questo momento di crisi che stiamo vivendo". Usare parole diverse cambia completamente il tono del messaggio. Potreste dire: "Ma sono le parole che cambiano il tono del messaggio, oppure se c'è una disposizione interiore diversa, di conseguenza cercherò parole diverse". Credo che le due cose si influenzino a vicenda. L'atteggiamento di fondo è sicuramente fondamentale, ma se lo uniamo alle parole giuste, insieme creeranno un messaggio potenziante. Buddha diceva che le parole hanno il potere di creare e di distruggere. Le parole che usiamo possono indebolire il nostro discorso e le nostre intenzioni. Oppure possiamo scegliere di usare parole potenzianti che diano forza, incrementino il messaggio che vogliamo trasmettere. Prova a fare questo esercizio, prova a scrivere su un foglio secondo te quali sono le parole che possono potenziare la tua comunicazione. Unità, coesione, comunità, amore, felicità, pace, pazienza, sicurezza, fiducia, gruppo, stupore, meraviglia, speranza, fede. Impara giorno dopo giorno ad utilizzare più frequentemente parole come queste, perché se cambi le tue parole, cambierà anche il tuo mondo e la percezione che hai di esso.